bon fermai rete, e fra l'altra in terra e legge le sue vecchia sostener, e fra l'altra in terra la legge le sue vecchia sostener, a sostener. E fra l'altra in terra legge le sue vicia sostener, con figura peso eguale l'aere Dio conferma legge, e fra l'altra in terra legge le sue vicia sostener, e fra l'altra in terra legge le sue vecchia sostener, con figuria e peso eguale l'aere Dio conferma legge, e fra l'altra in terra legge